Friuli nel mondo, 231esima trasmissione dedicata agli emigrati, motivi popolari religiosi. Il clima natalizio si addice, cari fratelli emigrati, ai canti che ascolterete oggi su antichi motivi popolari del nostro Friuli. La celebrazione della messa in lingua friulana, col favore generale che va riscuotendo, risponde a una domanda che il friulano credente di oggi si poneva. La lingua del Friuli è un mezzo dignitoso e attuale per trasmettere il messaggio della fede? Il coro Aquilee è sorto a dare risposta a un quesito parallelo a questo. Ferma restando la possibilità di creare canti liturgici friulani ex novo, c'è in Friuli un repertorio musicale già esistente, con caratteri ben individuati e tradizionali, che può essere messo al servizio della liturgia di oggi e che può formare anche un punto di riferimento per eventuali creazioni ulteriori. Ecco, presenteremo allora alcuni brani come saggio, ricordando nuovamente che i brani musicali provengono dal repertorio popolare e che solo raramente si è effettuata qualche modifica nel testo verbale per renderlo più conforme alla mentalità odierna. Il coro Aquilee della parrocchia del Carmine di Udine è formato da 20 coristi, diretti da Don Joseph Carniello, e canta così genuinamente senza alcuna pretesa artistica. Il primo brano si intitola «O Gesù, che tu ses muart». È un canto di penitenza proveniente da Resia. Ricalca nel testo le parole dell'inno Vexilla Regis Prodeunt. La melodia meditativa e implorante diventa insistente e solenne nell'acclamazione «O Signor vedul di no», creando un clima di profonda e umile preghiera che non indulge a pietismi. Gloria a Dio. Questo Glorie risulta dall'adattamento di un falso bordone dell'Alto Canal di Gorto alle parole dell'inno angelico tradotto in friulano da Checco Placereani. È una cantilena lineare e quindi maestosa che raggiunge il massimo nelle tre cadenze melismatiche che hanno il potere di trasportare in un'atmosfera profondamente meditativa. È abbastanza spontaneo instaurare un parallelo con i più antichi Gloria del repertorio gregoriano. Il bordone adattato al Sant proviene da Bicinicco ed è comune ad altri paesi del Friuli. Linearità e maestosità sono i caratteri di questa melodia, che perciò ben si adatta al canto dell'acclamazione culminante della messa. Yeah. Fra Dismei. Questo è un corale eucaristico proveniente da Remanzacco. Presenta nella metrica del testo verbale e nei canoni musicali le caratteristiche delle villotte settecentesche. La melodia lineare, raccolta, ricca di mistero e velata di tristezza, sottolinea l'evento della cena fraterna che precede la morte del Signore. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.